Il primo pensiero alle 17 vittime, l'unica cosa irreparabile come fu per le 28 in occasione del terremoto di cui ricorre a breve il 20 maggio, 12° anniversario. Dopodiché il resto si deve ricostruire tutto, meglio di prima e non come prima, però certo mancano delle cose. La prima, questo tema del personale, troppi comuni non hanno il personale in numero adeguato, tecnico e amministrativo per fare tutto ciò che devono fare. Secondo, i beni mobili, sembra una barzelletta dirla, dopo un anno non sono ancora ricompresi tra ciò che può essere rimborsato. Non ci sono molte risorse per il rimborso dei danni ai privati, mentre ci sono parecchie risorse per fare tutti gli interventi di parte pubblica. Ma anche ci fossero quelle risorse, in questo momento, dopo un anno, non è possibile rimborsare chi ha perso tutto, ma se ti entra 2 metri d'acqua in casa, cosa vuoi mai chiedere come rimborso? Il danno agli arredi, al mobilio, elettrodomestici, auto, moto, scorte di magazzino. Terzo, in finanziaria hanno approvato la norma primaria sul cosiddetto credito d'imposta, che ha funzionato benissimo nel terremoto e che ha permesso di non far spendere un euro a nessuno e rimborsare tutto al 100%. Il problema è che manca il decreto del governo, dopo mesi, manca l'accordo con Cassa Depositi e Prestiti e poi manca l'accordo con le banche, che sono 3 step successivi, e quindi io non so, essendo già a maggio, quando mai queste cose che dovrebbero essere già state fatte le faranno. Io mi auguro che, come dire, le cose volgano al meglio, si accelerino. Col commissario Figliuolo, come sapete, stiamo lavorando assiduamente tutti i giorni e lo ringrazio. Il governo ha fatto tante promesse, mi pare che se andate nei territori a chiedere alle famiglie, ai cittadini o agli imprenditori che hanno avuto tanti danni, pochi di loro potranno dirvi che sono già stati rimborsati. Al 100% penso nessuno o quasi, molto pochissimi, tanti non hanno ricevuto ancora praticamente niente. Quindi noi, il nostro dovere è quello di darci da fare, perché questo, come è stato promesso un anno fa e come è stato garantito a tutti coloro danneggiati al terremoto, venga fatto anche per l'alluvione.